Ma che è? Buongiorno a tutti. Sta per cominciare il cammino di Gigi D'Agostino. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? È mica un giochino. Non si può giocare. Sali in sella, è suonata la campanella. Sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. Sono due tipi di artisti, la musica, quelli che vogliono passare alla storia e quelli che si accontentano di passare alla cassa. La musica, la Giorgio Gaber, la musica, la spettacolo, la musica, la festa, vai di cassa. La musica, la festa, la musica, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, la musica, la festa, ottobre 1892. Arthur Conan Doyle pubblica Le avventure di Sherlock Holmes. Combs. Pom pom parom parom Combs. Non è che siamo qui a snocciolare, eh? Musica allo stato puro. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Non giochiamo. Every day I pray, every day I say, matter of fact, I really need you every day. People still gon' talk, some may be punk, but don't worry, girl, I'm really gonna drop. When the sun is down, when the moon's gon' shine, girl, I really wanna be with ya. Every hour, every minute, every day, every year. Come on, girl, please stay with me. Things go wanna ride with me, talk with me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot poppin' down, she's a witch. I wanna test if it's true that she really freak. Duff a beat. I heard a lot about her, that she make it grow me silly. No damn chili, just cry. Call me Billy, come on. Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Appuntamento importantissimo, questa sera alle ore 21, Halloween Elettronico 2006. Presso il campo sportivo di Ragna, Canton Ticino, Svizzera. Musica, ritmi e atmosfera creati da Gigi D'Agostino. Ottobre 1929 nasce Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli, sportivo e attore. Il cammino di Gigi D'Agostino. M2O, musica allo stato puro. 31 ottobre 1968 nasce Vanilla Ice, cantante rap. Rap. Hey, wow. A cosa? Appuntamento calabrese. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 11 novembre al Papido Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente. Voltaire, Voltaire è forte. Il cammino di Gigi D'Agostino. fragranza per l'ambiente. Ottobre 1517, Riforma protestante. Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sul portale della chiesa di Wittenberg. Hai capito? Spiega cosa hai capito. Allora gli spiego. Essere una grande forza dinamica. E quale forza è più potente dell'amore? Igor Stravinsky. Inchi. Ci c'è da partire un altro modo di fare musica. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente quando vorrei dire.

forza prende vita. Why am I leading a lonely life? Can you feel the way I'm so tired? Do you need me to say goodbye? Don't forget about me tonight, 'cause my heart is not going to die. Just a love I could not deny. You will listen to me for. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Importantissimo questa sera alle ore 21, Halloween elettronico 2006. Dai, fai l'annuncio, lavora. Halloween elettronico 2006 questa sera presso il campo sportivo di Iragna, Canton Ticino, Svizzera. Musica, ritmi e atmosfera creati da Gigi D'Agostino. È un evento, già lo sento. Se volete mandare i vostri sms con le vostre dediche, i vostri pensieri e i fattacci vostri e dei problemi vostri e se avete qualche protesta da fare, il numero è il seguente: 333-64-67-662. Sono nato con la musica dentro di me. È l'unica spiegazione che conosco per quello che ho realizzato nella vita. Ray Charles. Charles. Charles. Ray Charles. Charles. Sono sicuro si pronuncia così. Sì. Modo di fare musica. Il 31 ottobre del 1936 vengono costituiti i Boy Scouts delle Filippine. Inchia notiziona, stasera si festeggia. Bogacci via questo. M2O, musica allo stato puro, da ripire sicuro. Appuntamento calabrese. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 11 novembre al Papito Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Ottobre del 1860 nasce Juliet Love, fondatrice delle Girl Scouts. E questa mi interessa, è forte, questa è una notizia che Ma che sta a fare? Ma che sta a giocare qua? No, volevo dirlo. Mi è venuto in mente un mio amico. Non c'entra niente. Un fatto, anche il più modesto, conta più di una montagna di ipotesi. Pietro Nenni. Se poti in forma durante il cammino. Per maggiori informazioni sulle sue serate e sui suoi brani, clicca sui tasti, ma usa le mani. www.gigidagostino.com. Vai nel suo forum e inizia a cercare. Se proprio non trovi, ti fai aiutare. I never did a fact. What? Never give a damn about. give a damn about crap. What drama I never did expect. What never give a damn about crap. What drama I never did expect. What never give a damn about crap. La vita è più bella quando suona la campanella. È forte. Mandare i vostri sms è il seguente: 333 64 67 662. Quando si trova un coniuge ammazzato, la prima persona inquisita è l'altro coniuge. Questo la dice lunga su quel che la gente pensa della famiglia. George Orwell. Orwell. Quello lì. Giorgio, quello lì. Non mi interessa sentirmi intelligente guardando in TV dei cretini. Preferirei sentirmi un cretino di fronte a persone eccellenti. Franco Battiato. '98. Inizia la crisi del disarmo iracheno. L'Iraq annuncia che non coopererà più con gli ispettori delle Nazioni Unite. Gigi D'Agostino. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Da, da, tegri da, enigna, ta, ta, ta, tegri da. Da, da, tegri da, enigna, ta, ta, ta, tegri da. Da, da, tegri da, enigna, ta, ta, ta, tegri da. Da, da, tegri da, enigna, ta, ta, ta, tegri da. Da, da, tegri da, enigna, ta, ta, ta, tegri da. Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Sabato 4 novembre, discoteca Nashit Donauplex, Vienna, Austria. È bellissimo, mi piace moltissimo, però basta. Oh. Ottobre 1562. Nasce Giovanni Guler von Weineck, diplomatico, storico e cartografo svizzero. Inchia Giovanni il cartolaio. We'll be right back. cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Ci fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Importantissimo questa sera alle ore 21 Halloween elettronico 2006. Vai un po' con l'info. Il cammino di Gigi D'Agostino presenta Halloween elettronico 2006, quinta edizione. Musica e ritmi ideati, creati e suonati da Gigi D'Agostino. Halloween elettronico 2006 presso il campo sportivo di Iragna, Canton Ticino, Svizzera. Alle ore 21, questa sera, ci vediamo lì. cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Appuntamento calabrese. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 11 novembre al Papito Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. L'unico modo per rafforzare l'intelletto è quello di non decidere niente riguardo a nulla. Di lasciare che la mente sia una strada percorribile da tutti i pensieri. John Keats. Keats. È scritto. No, perché? È scritto. Cat. A cosa? Gigi D'Agostino, la musica ben detta. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma, e questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita.